quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Cioè saranno spendibili fisicamente soltanto in libreria e musei? Neanche in libreria, lo dico così, la Mondadori si arrabbia, perché per esempio magari uno compra il libro di Bruno Vespa e qualcuno dice ma questa è la mia cultura, la formazione, e parte la polemica, quindi per esempio il bonus non sarà utilizzabile per comprare il libro di Vespa. Da dove provengono? Ti mandate 500 euro, quelli se li vanno a spendere a Flipper, voglio dire, insomma. No, Flipper Vespa, ora 18enne, se lei mi trova un 18enne che va al Flipper Vespa, è cascato sul Flipper lei. Ma come, cioè, il tema del Flipper è un tema che resterà nella storia, perché va approfondito. Il 18enne col Flipper. Mi piace invece la proposta del Presidente del Consiglio di dare 500 euro ai diciottenni? Sì, domani ne diamo 250 alle donne bionde, dopodomani ne diamo 318 ai milanisti e avanti di questo passo facciamo dei regali elettorali senza far ripartire il Paese. Viva i soldi! Se qualcuno pensa che sia una mancia elettorale, molto semplice, non la spende e questi soldi restano in mano allo Stato italiano. Quindi tutti quelli che dicono, ah, non voglio spendere questi soldi, e non ci andare a teatro, questi soldi li spenderemo in un altro modo. Prendi, spendi, spendi, e non domandare da dove provengono. Soldi, soldi, soldi per tutti, amici! Soldi, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Sì, viva i soldi, viva i soldi. Il dibattito era per la presentazione del libro di Renzi, c'era Bruno Vespa. Il libro di Bruno Vespa, peraltro, non c'era Renzi, ecco, il libro è di Bruno Vespa. No, perché pensavo, ero sovrappensiero proprio perché Renzi ha detto qui è come il G7, c'è il G7, il G20 e la presentazione del libro di Bruno Vespa. Renzi si è presentato così. Sì, un po' stuzzicare, a pizzicare Vespa, è quella dei diciottenni che giocano a Flipper, peraltro. Il nostro Peter Bescapè, regia, che non ha più 18 anni, dice ma io ci gioco ancora a Flipper. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! E allora eccoci qua. Il diciottenne che gioca a Flipper, effettivamente, lui che gioca già alla PlayStation, è rimasto un po' indietro, Bruno Vespa, il Flipper, ho capito, ma dove lo trovi un Flipper adesso? Dai, su, ormai si gioca a PlayStation, la Wii, ste robe qui, non è che il Flipper. Oh, a proposito di soldi, cari amici, è scoppiata la bolla giovani, quella che... Ho detto varie volte sulle pensioni. E cioè Boeri ha detto che i giovani in pratica non prenderanno più la pensione o faranno fatica a prendere la pensione, quello che dico da tempo. Ma d'altronde non bisogna disturbare quelli che la pensione già ce l'hanno. No, non tocchiamoli, poi mi dicono che ce l'ho contro gli anziani, che ce l'ho contro gli anziani. No, non si possono toccare, non bisogna disturbare la felicità degli anziani. E quindi i soldi ai giovani, le pensioni ai giovani non arriveranno. morite in fretta, cari giovani, morite subito, morite di stenti, non pensate di arrivare alla vecchiaia perché qualcuno vi darà la pensione, non ne avete diritto, crepate subito, cari giovani. Ecco, siccome mi accusano di aver detto le cose contro gli anziani, no, adesso dico contro i giovani. Giovani, morite adesso, subito, perché tanto i soldi non ci saranno per voi nel futuro e quindi non create problemi allo Stato. Perché volete vivere così a lungo? Morite subito. Va bene? Oh. 6:34 minuti, questo è 24 mattino. C'è intanto il nostro direttore. Eccolo qua. Buongiorno, ciao. Luca Dini, direttore di Vanity Fair, eccoci. Tu non era un appello, tu sei giovane, ma non era un appello. Io sono giovanissimo, non ho mai visto un flipper in vita mia. Esatto, giochi ancora a flipper tu? No, Bruno Vespa, il flipper. Il flipper, non ci sono più, no, ci sono ancora magari questi oggetti un po' vintage. Ma però c'è Peter Bescovi che continua a guardarmi e dire: oh, io gioco a flipper. Ma dove ce l'hai? Dove ce l'hai fisicamente? C'è in casa. Ah, c'è un bar vicino a casa dove c'è ancora il flipper. Vabbè, un bar di quelli da preservare, insomma. Allora, insieme a Luca Dini c'è la nostra. La radio di ce l'abbiamo fatta. Ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto dei problemi di collegamento. Mentre io parlavo, lei mi chiamava sul cellulare e io le mettevo giù. Perché insomma. Esatto, perché a quest'ora una persona seria, buongiorno a tutti, che lavora in radio, non parla al cellulare. No, è squillato anche in onda, te lo devo dire, ma ho spento. Ho buttato subito giù perché non riuscivo a chiamarti. Meglio mi sento. Buongiorno. Abbiamo dei telefoni, evidentemente. Io avevo un flipper a casa. Ah, ma di quelli veri? Mi regalarono un flipper. Di quelli proprio che... Va, veri, bellissimo. Veri. E io l'ho regalato a un cretino. A un ex fidanzato, dai, diciamo la verità. Diciamo. No, peggio. Nel senso che era invece una persona conosciuta, insomma, così, non col quale non c'erano legami di carattere affettivo, così in questi casi, ma era bello. Io nella mia dabbenaggine di allora ho detto: ma sì, ma cosa me ne faccio di un flipper tutto intero, nel senso, come se uno le mantenesse. C'erano anche i mini flipper, quelli inutili, sì, che ti regalavano quando eri bambino. Ecco, dici, c'erano, appunto, vedi che così in passato. Io ti ho regalato il flipper, invece era un apparecchietto di plastica che non serviva a niente. Invece questo era proprio di quelli che andava anche in tilt, andava in tilt? E faceva di tutto. Vabbè, e io ho detto: vabbè, lo regalo a un cretino. Perché? A un cretino. Ma perché un cretino proprio? Vabbè. Perché sai, me l'hai regalato a una persona bella. Che bello, l'ho regalato a una persona bella. No, un cretino. Un cretino, eccolo qua. Comunque giocavo a flipper. Se ne trovo uno, gioco. Giocava a flipper. Intanto Peter Bescovi ci mette il rumore del flipper. Siamo a questo. Grande regia. Eccolo, bravo, grande regia. Che bello. Che bei momenti che Bruno Vespa ci ha fatto rivivere ieri. Allora dai, apriamo subito il Parlamento perché, vabbè, io dai, l'ho data come provocazione. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Ma che dobbiamo fare? Cioè, caro Luca Dini, adesso Boeri dice che i giovani non prendono la pensione. Non dire niente contro gli anziani che prendono già la pensione, che già mi hanno attaccato in 50 dicendo che gli ho detto delle cose brutte in passato. Però diciamo. No, anzi, rimandiamo anche a casa gli stranieri, no? Come si dice sempre, a casa loro. Ecco. Così, siccome, più forte, dillo un po' così, più convinto. A casa loro, più convinto. Oh. Così, siccome anche loro ormai sono tra i pochi che finanziano le pensioni dei futuri giovani, i giovani dovranno crepare ancora prima, come dici tu. Oh, eccolo lì. Ovviamente è ironico il nostro direttore, non è che il leghismo sei impossessato di Luca Dini. No, lo dico perché magari poi c'è qualcuno in redazione che ti attende e dice: ma che è successo, direttore? Sei diventato improvvisamente... Ho mangiato un flipper. Hai mangiato un flipper. Oh, mi arriva subito, credo, da un ascoltatore giovane, un appoggio. Alino, comincia tu a morire. Vabbè, poi potrebbe succedere. Allora, ma io non sono giovanissimo, quindi non è che si è può. È vero, perché sei un ragazzino, ma tu sei come Garibaldi a Gianicolo, non si tocca la statua di Garibaldi a Gianicolo. Non si è piaciuta questa? Questa mi è piaciuta. Mi è piaciuta. No, è una... Dipende, insomma, perché nessuno che non mi tocchi, poi dopo. Ma che insolenza questa. No, che dicevi, ma... direttore? Che volevi dire, però? Hai detto un però. Non volevo interrompere. Volevo dire che questa bolla doveva scoppiare, cioè bisogna prima o poi che se ne parli di questa cosa, perché è la fine del sogno secondo cui i soldi si possono stampare o la ricchezza si può moltiplicare come nel campo dei miracoli di Pinocchio. Cioè è evidente, con un sistema dove uno riceve quello che non ha messo da parte, prima o poi qualcuno paga e pagheranno i giovani, non è giusto. Cioè, Già stanno pagando, perché non pensino, certo, i giovani di poter avere le stesse pensioni con le stesse garanzie con cui sono andati in pensione i nostri genitori, i nostri nonni. Noi siamo forse in una situazione di mezzo, però quelli che hanno 30 anni adesso sono fregati. Sono abbastanza fregati. Allora, o vogliamo fare qualcosa, non so, Paola, la lungimiranza della politica dovrebbe pensare anche a dare una risposta a questo, oppure si pensa sempre al subito, al voto sporco, bello, che ci porta al potere nel giro di 2 anni? Nel mio esasperante ottimismo penso che accadrà, che arriveranno anche risposte, si imposteranno progetti di risposta. Ma parlo di un esasperato ottimismo e lo sappiamo, la nostra Paola Saluzzi è sempre così, ecco, ottimista, e ci piace così ottimista. Meno male, va. Vabbè, insomma, invece io non, quest'anno pensavo di non doverne parlare di questa storia dei presepi, dei Natali, dei non lo so, tu Luca devi festeggiare il Natale, sì, lo so, io sempre, ci tocca anche quest'anno, sentite anche il ci tocca parlarne delle polemiche. No, hai fatto bene a precisare. Ci tocca parlarne perché tra l'altro stavo arrivando qui, oggi ho dovuto prendere il taxi perché mia moglie aveva bisogno della macchina e quindi sono venuto in taxi. Ecco, sono venuto in taxi. Il tassista mi ha detto: "Ma lo so che anche qui nella scuola mio nipote alla materna dicono che non faranno per non disturbare la festa religiosa." E io dico: ma com'è possibile? La gente è pazza. Io ti do una notizia. Allora, diamo una notizia ufficiale. La gente è pazza, o che quando non era pazza di suo è impazzita. Perché è impossibile. Cioè, è una pazzia non festeggiare. Che vai, usanza che trovi. No, nei vecchi e saggi proverbi. Esiste, usanza, credo, attenzione, chiamala come ti pare. Esiste, punto. E chi si tira indietro fa un errore che prima ancora che politico, per chi lo vuole cavalcare politicamente, è un errore etico. Cioè, se c'è un'abitudine, una norma non scritta, ma qualcosa che ci appartiene da un punto di vista da sempre di cultura, ma in nome di che cosa io lo debba cancellare non si sa. Ah, guarda, non si sa. Io anni fa sentii uno che disse: la festa delle luci, ma va a lavorare all'Enel. La festa delle luci. Bella questa. Forse era stato assunto all'Enel. Ma va a lavorare all'Enel. La festa delle luci. Ma andiamo. Sentite qui il vescovo di Padova. Poi per la verità ha detto: sono stato frainteso. Si chiama Monsignor Cipolla. Sentite cosa ha detto il vescovo di Padova. Io farei tanti passi indietro pur di mantenerci nella pace e pur di mantenerci nell'amicizia, nella fraternità. Non dobbiamo pretendere, non vorrei che ci presentassimo pretendendo qualsiasi piccola cosa che magari anche la nostra tradizione, la nostra cultura renderebbe come ovvia. insomma, parlava dei canti di Natale. Farei dei passi indietro in nome della pace, dei, non, non pretendiamo le cose, ma io dico, ma è un esponente della Chiesa. Monsignor, no, ma è anche un malinteso gigantesco. Sì. Ma quale pace? Ma non serve a niente fare questi passi indietro. Esatto, come se tra... Nessuno li chiede, nessuno li chiede. È come dire, è molto tafazziano tutto questo. Oh, Tafazzi mi sembra che sia ma il personaggio. Dovremmo fare anche dei passi avanti tentando di far capire che non si ritirano i bambini dall'ora di musica a scuola, che forse spiegare ancora meglio, certamente non ai bambini, ma a determinati, attenzione, determinati genitori che sono un po', vanno un po' oltre, ma in generale io credo che a nessuno venga in mente, tolti i singoli sprazzi, di tolga quel crocifisso dal muro, sì, lo tolgo e poi te lo do in testa, ma insomma il senso è questo. Non si vuole arrivare a questo, è troppo preventivo, è tutto esageratamente preventivo. Brava, è tafazziano, cioè, come dice Lucadini. Cioè... A casa ci dà il suo tempo il tacchino della signora Maria Celeste, che mi ha fatto il rollè di Natale con la salsa di castagne. E questa signora si è presentata col concetto dell'arrosto di Natale con la salsa di castagne, che tra l'altro era una cosa divinamente buona. E lì si cucinava con l'idea che tutto fosse pronto perché sta arrivando il primo dicembre, parte il mese del Natale. Non puoi cancellare. Ma questa cosa di, diciamolo così, di castrarsi, esatto, è come dici tu, Luca, ma chi ci chiede dei passi indietro? Ma c'è qualcuno? No, anche perché poi vorrei fare un appello, perché poi insomma poi succede che ti viene la Germini a cantare Tu scendi dalle stelle davanti alla scuola, e per i bambini sono traumi da cui non si riprenderanno mai. Più che poi la Gelmini era anche abbastanza intonata, ma la russa tu scendi dalle stelle, ore del cielo. Eccola. La russa era un po' dietro, perché sai che... Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare. Senti, l'ho riconosciuto, ragione. Però sei riconosciuto. Nuovo bambino. Vabbè, insomma, dai, quelli sono traumi. Comunque, dopo il traffico rientriamo, siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, e con Paola Saluzzi. A Milan, io voglio sentire il traffico. Traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Vogliono mettere la tassa sulla bicicletta. Ma che devono mettere? Se devono diminuire le paghe, questa gente di Roma, questi delinquenti, questi ladri, questi farabutti. Ciao Mila, ti saluto, ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che bell'asino che sei, Mila, Licci Giurnele, che è meglio. Ciao Mila, ho appena sentito che Gesù Cristo era dei 5 stelle. Ma quando era là sulla croce, se lui era dei 5 stelle, quelli che aveva a destra e a sinistra, di che partito erano? Ciao Milan, buona giornata. Ciao Ale, Milan, mi sono sbagliato, volevo parlare con Cruciani, per la storia dei conigli. Comunque sei un grande. Ciao, viva te e la rossa. Vabbè, ha sbagliato, però già che c'era, viva te la rossa, la nostra Paola. Ma ringraziamo. Ma certo. Tra l'altro, due notizie per concludere la questione crocifissi. Allora, c'è stato il dibattito, vi giuro, è vero, non c'è da ridere, il dibattito in Consiglio regionale Liguria per mettere il crocifisso in aula è finito a bestemmie, è finito. Ma complimenti. Dal pubblico, ragazzi, è così, complimenti davvero. E poi sentite qui Crozza, ieri Crozza, Salvini, guarda che tutti quelli del presepe erano arabi, a parte i re magi, che invece erano curdi. Vorrei ricordare a Salvini e a tutti che per rivivere un evento accaduto in Palestina 2000 anni fa, ci montiamo in casa un abete che cresce in Trentino Alto Adige, ci facciamo riportare i regali da un vecchio ciccione che vive in Lapponia vestito dalla Coca-Cola. Che minchia di tradizioni stiamo parlando. E va bene, questo crozza. Tra l'altro, non è che l'ascoltatore che ha detto hai sentito Luca quello che ha detto, ho sentito che Gesù è del Movimento 5 Stelle, cioè non è che, adesso specifichiamo, non è che l'ha sentito nel giornale radio, è stata data la notizia. Paola Taverna, lo facciamo risentire, Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, sentite cosa ha detto 2 giorni fa. Io trovo una vicinanza incredibile all'azione rivoluzionaria che fece Gesù Cristo, all'azione rivoluzionaria alla quale noi oggi stiamo chiamando i cittadini. Capito Luca? Modesta. Modesta, esatto. Si ispirano a Gesù Cristo, quelli del Movimento 5 Stelle. Mamma mia, ragazzi. Cara Paola, perché sbuffi? Ecco. Perché sbuffi? No, vi ascoltavo. Io non solo sono chiamata e ti ringrazio sempre questo mercoledì a fare insieme a voi la radio, ma ogni tanto mi piace ascoltarvi. Che bello. E allora, ascolta questa. Sulla copertina di Vanity Fair c'è una splendida cinquantenne rossa, un po' rossa con i riflessi, ma non molto rossa. Il direttore mi ha dedicato la copertina. A tua insaputa. No, è Valeria Golino. La prossima, chissà, magari la copertina. E si parla dell'Eros a 50 anni. Qui Paola, cosa, dovresti cosa fare un commento. Dovresti fare un commento tu. Perché è vera. Non lo mettiamo in dubbio, basta, ecco. ti trinceri dietro questo convento. No, cosa buona, giusto, è vera. Stringato. Meraviglioso. Evviva l'Eros a 50 anni, evviva Lea Golino, evviva anche la nostra rossa, Paola Saluzzi. Mi sembra giusto. E poi dei gran servizi sui tradimenti, insomma, ma ti sembra una roba natalizia, Luca Dini? Facciamo tutti le corna, i mariti che tradiscono, ma che è? Sul prossimo il presepe, dai. per rimediare, no, ho visto questi servizi che mi avevano un po' incuriosito. E aspettiamo di sapere chi farà il bue e chi l'asinello. Ecco, per l'appunto. Vabbè, insomma, comunque segnalo Valeria Golino in prima su Vanity Fair. Tu, cara Paola, sai che a Roma. Visto che c'era, devo dirlo, è una bufala, pare una bufala quella di voler mettere le targhe alle biciclette, nel senso che il senatore Filippi ha detto le voglio mettere solo ai risciò. Ma esistono ancora i risciò che spostano merci per Roma? Merci umane, nel senso, sì. soggetti sì, ogni tanto se ne vede qualcuno. Ma non li ha vietati tutti? Tronca, il prefetto stronca. Adesso onestamente ultimamente non mi sono più lanciata a cercare i show in giro per la città, diciamo nel percorso che faccio io per andare al lavoro ne vedo pochi, questo sabato indagherò. Indagherò per te. Perché non è vero che voglio mettere le targhe, però è vero, e attenzione, pare che stia scoppiando lo scandalo di furbetti a VIP che si facevano togliere le multe a Roma. C'è una perquisizione degli uffici comunali, toglievano ai VIP le multe della zona traffico limitato, sottratti milioni di euro. Perché sorridi? Sei uno dei VIP? Sei una dei VIP? Tutte quelle che non si pagano ti arrivano in ritardo tra il capo e il collo. Tutte pagate, porca. Ce n'ho ancora io una da che devo pagare oggi. Quando dimentichi di pagarle, te lo ricordano, perché te le mandano vagamente maggiorate. Comunque io vorrei i nomi, perché pare che potrebbero uscire i nomi, lo raccontano il giorno, lo raccontano i vari giornali. C'è un'inchiesta per ora per di persone che si facevano togliere le multe. Tu Luca? No, io più che altro vorrei che gliele rimandassero maggiorate del 10.000%. Così una cosa equa, sì, una cosa 10.000%. Più o meno quello che è l'aggio di Equitalia, insomma, 10.000%. più interessi, è chiaro. Più un po' di sdegno, la quota sdegno, quindi anche un 3% in più per la quota sdegno. Va bene, cara Paletta, cosa fai oggi? Amico, quando vieni ospite a Sky 24 pomeriggio? Quando vuoi, quando molto bene. Quando molto vuoi. Bene. Quando vuoi. Prossimamente. Ci